diciamo, la comunità San Benedetto al Porto di Genova, cofondatore anche del coordinamento nazionale della comunità, quindi con Don Ciotti a suo tempo. Quindi siamo stati contattati qualche mese prima e abbiamo constatato immediatamente che l'annuncio, la convocazione del sottosegretario del giornale era questo, cioè questa legge Fini Giovanardi viene assolutamente, è qui, basta, vigente, applicabile. E allora subito abbiamo capito che non sarebbe stato nessun confronto, nessun dialogo. E allora insieme a altri operatori veramente del Friuli Venezia Giulia, di tutta Italia, abbiamo cercato di fare una conferenza non contro ma altra. Noi siamo riusciti anche a Trieste a creare proprio veramente un clima, c'è una partenza nuova, c'è un approfondimento partendo soprattutto dalla riduzione del danno. Mentre Giovanardi era volata ancora a Vienna a cercare di considerare quasi bestemmia questa riduzione del danno, mentre invece è una linea ancora europea, perché la Germania ha preso l'iniziativa e ha fondato altri 26 paesi. Addirittura coincidenza, è un articolo, un editoriale dell'Economista nella copertina stessa, dove clamorosamente questo santuario del capitalismo liberale dice, annuncia fallimento secolare proprio del proibizionismo. Noi, comunità privata del sociale, diciamo, ma da sempre lo facciamo con tutti gli anni, la centralità del servizio pubblico. Quindi partendo proprio dalla Costituzione di un servizio pubblico potenziato, non depotenziato, non abbandonato, il quale coordina, controlla, cioè spinge tutti i percorsi diversificati per questa situazione che si fa sempre più grave. Oltretutto per noi Trieste è stato proprio partendo da, per rispondere a questo mai principio sanzionatorio che si estende a tutti i diversi, si vuol creare quasi uno stato etico, diremo, cioè nel senso dove i diritti, cominciare per esempio i disoccupati, la scuola, i migranti, i precari, i vecchi, gli anziani, quindi per noi è stato proprio un momento di senso, di riscoprire la nostra consapevolezza per partecipare ad una quasi rivolta culturale,